ad alta voce. Valentina Carnelutti legge L'ora di tutti di Maria Corti. 17ª puntata. Nakira. Il sotterraneo odorava ancora di vino, ma vino non ce n'era più. C'era solo l'odore, acidulo, assorbito dal tufo delle pareti, perfido a stomaco vuoto. Inoltre, domine Dio, in qualunque parte si guardasse, buio pesto. Pareva di annegare nell'aria. Doveva essere stata una delle cantine di Lanzillotto Fragà, membro del consiglio, nel tempo in cui i turchi erano lontani da Otranto. Nakira, dove sei? Disse a voce bassa Kola Mazzapinta. Sono qua, vicino alla scala, risposi. Bisogna cercare di scappare, Nakira. Quasi muore di fame. Scappare dove? Se si esce, ci prendono. Ma qua non si può più stare. E neanche uscire si può, Kola. Si deve uscire. Senti, Kola, io dissi allora. Adesso che la guerra è finita, le cose sono cambiate, uno si vuole salvare. Adesso è inutile proprio morire. Sgranchii le gambe che si erano addormentate e provai a cambiare positura, ma era sempre posituraccia su quel pavimento ammuffito. Quanti siamo? Chiese Kola Mazzapinta. Una decina, credo, con quelli che stanno in fondo al sotterraneo. Cristoforo Rio, che è sceso per ultimo, ha detto che i turchi hanno raccolto tutti i nostri nella piazza, li hanno contati, hanno preso i nomi e li hanno chiusi nel cortile del castello. E che ne faranno? Va a sapere. Io dissi. Dici che li ammazzano? Va a sapere. San Basilio, non sai rispondere altro. Perché? Tu la sai la risposta? Si sentì uno stropiccio e un rumore di piedi sulla scala. Oh! Bisbigliò Kola. Che c'è? Voi, si sentì dalla scala la voce di Gaetano Calò. Noi siamo degli stupidi. Sapete che ho visto? Che hai visto? Chiese Kola. C'è una finestrella dietro la scala. Ho guardato fuori e ho visto che siamo degli stupidi. Ma che hai visto? Ho visto Don Donadeo Colussi e Don Antonio di San Pietro che andavano e venivano come frecce con una carta in mano. Allora ho chiamato Don Antonio e gli ho chiesto che cosa faceva. Sapete che mi ha detto? Mi ha detto che pagava il riscatto e lo imbarcavano per la Valona. Poi là lo lasciavano libero. Che stiamo a fare allora noi qua sotto? Ma quelli sono ricchi, dissi io. Noi con cosa ci riscattiamo? Con caciotte e salati? Tutti tacquero. Un fischio sottile che a poco crebbe fino a dare nell'ululato riempì il silenzio. Doveva essere il vento. Quelli che stavano in fondo al sotterraneo uno alla volta si accostarono, strisciando lungo i muri. Qualcuno incespicò, si sentì un tonfo seguito da un mannaggia ai sassi. Il tempo passava lento, così lento, e chissà che cosa ci preparava. Chissà perché eravamo venuti al mondo noi, e pensare che ci eravamo sposati tutti, avevamo bevuto alla salute nel giorno delle nozze mentre suonava la musica fra tanti festeggiamenti, e avevamo fatto dei figli, come se dovessimo restarci secoli al mondo. Sicuri che avremmo saputo pensare a tutto e non ci sarebbe stata perdita a cui non avessimo potuto rimediare. Mazzapinta vicino a me sospirò, così forte che ci voltammo. Pensai che nella vita succedeva come in mare. Quando è calmo, l'acqua ti lascia vedere sul fondo le rocce con le alghe che si piegano e si slungano, i pesciolini che guizzano a scatti, i ricci aggrappati alla pietra e tante piccole inezie che dondolano senza rumore. Ma se l'acqua comincia a muoversi, a far crespi e schiuma, tutto sparisce e da quel tratto d'acqua può venire su anche la morte. Domani è tramontana, esclamò Mazzapinta. Allora Cristoforo Rio disse: ho l'idea che i turchi ci taglieranno la testa. Di nuovo silenzio. Dopo un poco Gaetano Calò disse: e se uscissimo di notte invece? C'è un passaggio sotterraneo vicino al palazzo Colussi che porta fuori le mura. Ricordate, da là entrò fanciullo durante l'assedio quando tornò da Napoli. «Ma se ti prendono prima del Palazzo Colussi, ti ammazzano», disse Deraho. «Invece noi, all'alba, ci consegniamo e chiediamo di lavorare». «Mi dà l'aria che ci taglieranno la testa», ripete Cristoforo Rio. «Cristo, la vuoi finire?» sbottò fuori Deraho. «È un momento di qui al Palazzo Colussi, due vicoli soli», disse Gaetano Calò. «Ma poi la piazza! Le piazze sono un brutto affare, sono come la rete dei tonni», disse Deraho e soggiunse: «Senti, Gaetano, io ero nella cattedrale quando entrarono i turchi e la mia donna mi ha gridato: Antonio, adesso non c'è più bisogno che muori, adesso devi stare attento a non morire. È stata lei a farmi uscire dalla sacrestia nella confusione del momento e a dirmi di scendere in un sotterraneo. Io non la vedo stanotte la sortita». «E io sì», rispose Gaetano Calò. «Non ci sto qua a fare il sorcio». «Anch'io, io soffro a stare qua», disse una voce nel buio. Eravamo tutti nervosi perché non si sapeva che cosa sarebbe successo e perché adesso a ognuno era venuta la paura di morire, che non c'era stata mai durante l'assedio. Si sentirono dei passi pesanti su, nella strada, di uomini armati. «Vanno e vengono da padroni», disse Deraho. «Perché abbiamo combattuto tanto?» sospirò Gaetano Calò. «A che è servito? Perché quelli vadano avanti e indietro nelle nostre case?» Al che Mazzapinta si scosse. Parlò a sua volta con voce decisa, come facesse una proclamazione. «Il capitano degli Falconi, buonanima, è morto anche lui. Diceva che se non resistevamo noi, quelli in due giorni erano a Lecce e poi a Brindisi». «Mi fanno ridere le ragioni della guerra», disse Gaetano Calò. «Ma a che è servito? Che cosa ne abbiamo avuto noi?» «Adesso puoi pure finirla con questi discorsi», rispose Deraho seccato. Stemmo un poco zitti e accovacciati, tendendo l'orecchio ai rumorini che venivano da sopra e aspettando ansiosamente che si facesse notte. Poi i rumori cessarono. Venne una calma profonda, ancora più impressionante, come se il mondo si fosse fermato. Era venuta notte. A questo punto ci dividemmo in due gruppi, sempre muovendoci a tastoni, inciampando nelle gambe di qualcuno e domandando al corpo che urtavamo: «Ehi, chi sei?» «Allora, ci siamo?» disse alla fine Gaetano Calò. Tre uomini si erano preparati a sortire insieme a lui. «Che Dio vi protegga!» io esclamai. «Se non ci vedremo più», fece Gaetano Calò. «Buona fortuna!» «Buona fortuna!» rispondemmo in coro. Salirono in punta di piedi e scomparvero. Restammo in sei, zitti e con le orecchie tese. «Se la loro idea è giusta», disse Mazzapinta, «fra due ore sono in salvo, e se no, è cosa di un momento». Io rivedevo le mura piene di fumo, di polvere, scimitarre, berretti turchi e sentivo nelle orecchie la voce di Cola Mazzapinta che gridava sulla Torre Grande: «Quando verrà Don Alfonso vi cacceremo a mare, porci infedeli!» Ma ora Mazzapinta era vicino a me e si fregava ogni tanto una gamba che gli doleva per via di una ferita di striscio. Mezzo sdraiato poggiavo la testa su una pietra, la quale era così dura e fredda da far perdere il ragionamento, sicché mi risedetti. Guardai a destra e a sinistra il sotterraneo, misurandone nella mente la lunghezza e la larghezza. Poteva contenere 30 botti, magari anche 35, un bel locale. «Compaesani», disse a un tratto Deraho, «a me la faccia dei turchi non fa paura. Sapete che mi fa paura? Il loro dio, che deve essere un demonio. Con quello si avrà da fare i conti». «In che maniera?» chiese Mazzapinta. «I turchi ci diranno: prima onora il nostro dio e poi ti daremo retta. Allora noi che facciamo?» La risposta mancò. «Vedete, qua è il difficile», disse Deraho. «Beh, ora proviamo a dormire un po'», rispose Mazzapinta. «Domani bisognerà avere la testa chiara». Il vento fischiava, lo si sentiva sbattere pesante sui muri, seguito da momenti di silenzio pieno. Ecco la sbattuta da capo e lontano, come dei lamenti, fini fini. Mi venne per un attimo alla mente un giorno di 2 anni addietro, quando ero a mare con Colangelo e il vento, scuotendo la barca di qua e di là, cercava di succhiarsela, sempre con il corteo di fischi lontani. Fu quella volta che a un tratto un pesce spada di un'ottantina di chilogrammi batté la prua della nostra barca, sprofondò la testa e si mise a svettare con la coda, alzando mucchi di schiuma. «Tieni bene il timone», io dissi a Colangelo, e afferrata la fiocina mi misi a prua. Quello andava su e giù, scuotendo la carne come ci fosse un solo grande pesce in tutto il mare. Colangelo stringeva forte con le mani il timone, rovesciato indietro, mordendosi le labbra. L'animale scomparve sott'acqua. La cosa sembrava finita, invece no. Balzò fuori dall'altra parte della barca, dritto come un pupazzo. «Ehi, quello rovescia la barca con questo mare!» gridò Colangelo. Io volevo rispondere che stavo aspettando il momento giusto per colpirlo, ma un'onda più grossa delle altre si rovesciò sulla barca e ci lasciò tutti bagnati. Il pesce ripiombò sott'acqua, ma nell'andare giù della coda tornò sulla testa. «Ehi, muori!» io gridai allora, dritto a prua, infilando i denti della fiocina al punto giusto sotto le branchie dove si fissarono le barbucce. Lui divenne immobile, ma poi d'un tratto balzò per un pezzo di corpo fuori dall'acqua e mi guardò. «Sì, signore», mi guardò con gli occhi tondi, fissi nei miei, come domandasse. Alla fine, capovolgendosi, si abbandonò tutto al mare. Quella notte, seduto nel sotterraneo di Lanzillotto Fragà, io vedevo gli occhi del pesce spada che a tratti venivano avanti dal fondo dello stanzone, fissi su di me come quel giorno, a tratti sprofondavano nell'ombra, mentre scricchiolii strani sortivano dai muri. «Derao, senti!» «Cosa?» «Non senti un rumore sui muri?» «Sorci», disse Derao, «e là in fondo ci deve essere pure uno scarico». Ho visto degli occhi guardarmi, come mi facessero una domanda. «Ma se stavi russando?» lui disse. «Taci adesso!» Sentivo un gran caldo, mi toccai, scottavo. Mi è venuta la febbre, pensai, e in quella vidi tante figurine ballare in fondo al sotterraneo con mantelli sfilacciati dal rosso al giallo andare in su e in giù. Chiusi gli occhi, ne apersi uno lo stesso. «Levatevi d'attorno, levatevi d'attorno!» mi lamentavo finché caddi in un vuoto nero e mi scordai di tutto. «Nakira!» mi svegliò all'improvviso Derao. «La finisci di dormire, fuori è giorno!» Mi alzai in piedi, ma dovetti subito appoggiarmi al muro, tanto mi trovavo fiacco e stranito. «Ho avuto il delirio!» dissi. «E facci di frego, dobbiamo salire adesso!» lui rispose. Anche Mazzapinta e gli altri si accostarono. «Allora!» disse Mazzapinta. «Appena vediamo un turco, giù a terra, tutti, capito? E dove andiamo?» «Tu dormivi», disse Mazzapinta, «e non hai sentito niente. Adesso tienici dietro e fa quello che facciamo noi, capito?» Salimmo in punta di piedi. Il vicolo era vuoto, ma le porte delle case, spalancate o a pezzi, davano a vedere che i turchi avevano già fatto visita minuta nel vicolo e pulizia di quanto gli premeva. Avanzammo piano piano, le spalle curve, i calcagni sollevati, come in chiesa durante la predica, e ci tenevamo sempre vicini l'uno all'altro lungo i muri delle case. Si sentiva un gran chiasso nell'aria in direzione della via di mezzo e della piazza. Appena svoltammo l'angolo, eccoti tre soldati turchi venire avanti, ma con andatura molle, slombata, la faccia di gente che sogna un letto. «A terra!» gridò Mazzapinta e ci buttammo giù, quasi ci avesse colpito il fulmine. I tre, fermi a un passo da noi, ci sguardarono annoiati e dopo che ebbero parlottato tra loro, uno si chinò lento a tastarci le brache per caso avessimo coltelli. Lo stesso fece con la mano un segno come dicesse «tiratevi su». Subito fummo in piedi. Fece un altro segno come dicesse «camminate». Era la prima volta che vedevamo dei turchi da vicino, senza spari e scimitarre, senza bisogno di ammazzarsi. «Ecco», dicevo fra me pieno di meraviglia, «ecco i turchi, eccoli qua. Che cosa staranno pensando?» ma guardarli non aiutava a capire. Parevano solo tre tipi scocciati e pieni di sonno. Se prima mi avessero parlato di turchi così, che mandavano avanti languidi una gamba dopo l'altra, quasi malinconici, non ci avrei creduto. In quella vennero in direzione contraria alcuni ufficiali chiusi nella divisa, con in testa una berretta di broccato all'usanza turca, acconciata un po' di traverso per artificio. Poiché andavano a piccolo trotto, i cavalli tenuti a briglia tesa rovesciavano ogni tanto indietro il muso, di colpo agitandolo nell'aria. Giunti presso di noi, scambiarono qualche parola con i soldati che ci scortavano, ma noi non potemmo capire proprio nulla per via della loro maledetta lingua. Solo a un certo momento, da qualche mossa di quello che ci aveva tastato le brache, capimmo che stava descrivendo la nostra andata a terra. Dopodiché gli ufficiali presero a guardarci con curiosità dalla testa ai piedi, alla stessa maniera che se fossimo una cosa molto allegra. Subito, come uno di loro parlò, gli altri scoppiarono a ridere. Infine, spronati i cavalli, ripresero il trotto mentre le scimitarre penzolavano lungo il fianco delle bestie. «Mannaggia loro!» borbottò Mazzapinta. «Zitto!» disse a voce bassa Derao, per caso uno avesse a capire. Riprendemmo il cammino, due per due, coi turchi di fianco. Il sole splendeva, che era una meraviglia. Il cielo sembrava felice. Tempo da scendere al porto e correre al largo in cerca di pesce, ma bastava voltarsi verso le case e tutto cambiava. Veniva un nodo alla gola a vedere com'era ridotta Otranto, con i muri sgretolati, le porte a pezzi, le strade insanguinate. Turchi entravano, turchi uscivano, qualcuno dormiva a gambe aperte sui gradini delle case. «Hanno fatto Stambul qua», disse Mazzapinta. A me sballottavano gli occhi alla luce, come non m'era mai successo, e mi girava la testa. Doveva essere la febbre, perché allo sballottamento degli occhi si accompagnavano sudori caldi e freddi per tutto il corpo. Passammo davanti alla chiesa dei Santi 40. Lì sul sacrato, cinque turchi seduti in circolo con le gambe incrociate alla maniera loro, in un pezzo d'ombra che disegnava in terra i contorni della facciata, mangiavano. Erano giovani, si vedeva che gli piaceva mangiare. Gli piaceva quel pezzo d'ombra e tutta la vita in generale. Io non me li ero proprio dipinti così, i turchi, e rimanevo pieno di meraviglia. Sortimmo nella via grande, nei pressi del palazzo Colussi. Qui i danni alle case erano minori, perché i grossi palazzi avevano resistito ai colpi delle bombarde, e se non ci fossero stati sul lastricato sassi, rottami e immondizie, si poteva pensare di essere ai tempi addietro. «Guardate!» disse a un tratto con voce soffocata Mazzapinta. Distesi sul lastricato della via, proprio davanti al palazzo Colussi, insanguinati e a braccia aperte, c'erano quattro morti: Gaetano Calò e i tre compagni. Ci fermammo a guardarli. Parevano chiusi dentro la solitudine, una solitudine grande come il mondo e insieme piccola da stringere il cuore. «È andata male», esclamò Derajo. Io mi feci il segno della croce, al che i compagni mi guardarono spaventati e subito guardarono i tre turchi, ma quelli ci fecero solo il gesto di proseguire. Allora anche gli altri si segnarono svelti con la croce. «Pace all'anima loro», disse Mazzapinta. «Pace», rispondemmo in coro. Ora camminavamo col capo volto all'indietro per guardarli ancora finché fosse possibile. Lo spigolo del palazzo Colussi a poco nascose le teste, le spalle, le braccia. Avanzavano solo le gambe, i piedi nudi, abbandonati sul lastricato, bianchi. Infine scomparvero anche quelli. I tre turchi, sempre pacifici e assonnati, ci lasciavano guardare. A loro importava solo che andassimo per due, venendoci dietro come gente che cammina così per abitudine. «Povero Calò», disse Cristoforo Rio. Non gli piaceva fare il sorcio nel sotterraneo. Thank you.